Lisandro Zammarco in base alla truffa che al giorno è nato. Niente assassini ci mancherebbe, rubo soltanto anche soldi da perdere. Per chi mi ha preso ci mancherebbe, non ho truffato la povera gente, per convenienza o aziendalismo dell'associazione Poveri Cristo. Mio caro giudice, chiedo il suo aiuto, non ho rubato mai più del dovuto. Come un bambino che ruba una mela da una grondante grossa fruttiera. La prima prova che porta gli atti sono i miei denti storti e gialli. Guardi che belli, quel bancone vestiti di riso, sorriso d'autore. Niente avvocato, non ho bisogno, porta gli atti mio mignolo monco. Perso lavoro, soccorso da me, lui di Tania beva quattro per mano. Cosa volete? Mi sono stufato di perdere pezzi, di essere sfruttato. Preso in mano la situazione, fate a mio modo la rivoluzione. Allora ingaggiato della Labella, per voi lo stereotipo della vergogna. Eppure aveva come clienti signori dottori e nobili genti. E chi mi dà del magnaccio è un fesso pure un pazzo. 50-50 con della Labella non era la che per me è una sorella. Un pugno alle spalle delle pensanti ancora con Lela da sotto impegnati. Svuotavo le tasche di tutti coloro che della morale facevano un logo. E cosa usciva la notte baciando alla fronte figli e la moglie, la cosa più fiera ed entusiasmante di averli lasciati le piazze mutande. E in quella piazza le poveracci delle donnacce dei poveri cristi, dove venivano a copulare oppure in campagna elettorale. E allora gridavano senza vergogna, faremo di voi gente ricca e più colta. Che cosa grottesca e paradossale a ladri mutande sentirmi gridare. Caro giudice, io avrò concluso, ho fatto altre truffe, mi è pure piaciuto. Mi spiace d'avervi turbato con la mia storia che è tutto un reato. Ma voi tutori della morale, ogni giorno in chiesa a pregare Gesù l'avete voi idolatrato, ma non poveracci che ha sempre parlato. Chiodo per chiodo picchiava la frusta, dalla vostra morale spin sulla nuca, ma da lei impostituta come la Lela, io con la colpa ma voi con la pietra. Picchiava la frusta dalla vostra morale, spini sulla nuca, ma dalla improstituta come la Lela, io con la colpa sì, ma voi con la pietra. Thank you.